656. Prugne giulebbate. Prendete prugne secche di Bosnia che sono grosse, lunghe e polpute, a differenza delle prugne di Marsiglia, piccole, tonde, magre, coperte da quel velo bianco che a Firenze chiamasi fiore, le quali non farebbero al caso. Per una quantità di grammi 500, dopo averle lavate e tenute in molle per 2 ore nell'acqua fresca, levatele asciutte e mettetele al fuoco con vino rosso buono 4 decilitri, acqua 2 decilitri, marsala 1 bicchierino, zucchero bianco 100 grammi, un pezzetto di cannella. Fatele bollire adagio per mezz'ora a cazzaruola coperta, che può bastare. Ma prima di toglierle dal fuoco, accertatevi se siano si rammorbidite abbastanza, perché il più o il meno di cottura può dipendere dalla qualità delle frutta. Levatele asciutte, collocandole nel vaso dove volete servirle, e lo sciroppo che resta fatelo restringere al fuoco per 8-10 minuti a cazzaruola scoperta. E poi versatelo anch'esso nel vaso sopra le prugne. All'odore della cannella, che mi sembra quello che più si addice, potete sostituire la vaniglia o la scorza di cedro o di arancio. È un dolce che si conserva a lungo e di gusto delicato, aggradito specialmente dalle signore. Non vorrei passare per il signor Todero Brontolon, se anche qui tocco il tasto dell'industria nazionale nel vedere che si potrebbe coltivare in Italia la specie di susina che si presta meglio ad essere seccata e messa in commercio a quest'uso.